tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti al notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito con motore di ricerca www.giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2023, info@sicilialibertaria.it. Il libro consigliato della settimana, Carlo Capuano, Invicta, la Chiesa degli Inganni, edizioni La Fiaccola. Un testo di duro anticlericalismo, di dura antireligiosità, arricchito da ottime illustrazioni in bianco e nero. Qualche slogan: rilanciare l'anticlericalismo, avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni. Iniziamo con Roberto Grendene, segretario dell'UAR. Impegnarsi a ragion veduta su Nessun Dogma 2022. È un duro attacco alle campane spaccatimpani, con riferimento a un caso avvenuto a Fivizzano, Massa Carrara. Abbiamo poi, interessante, su Rai Scuola, canale 57, 22 ottobre, ore 13, anzi 22 novembre, ore 13, un interessante servizio sulle enciclopedie, questa prima enciclopedia nella storia dell'umanità che fu molto perseguitata, censurata, condannata dall'Inquisizione. Sempre su Nessun Dogma, l'Osservatorio Laico, i privilegi clericali. Nell'ambito del PNR sono stati stanziati 250 milioni di euro per il Fondo Edifici di Culto, ente dello Stato italiano. Non solo, altri 240 milioni andranno a chiese di proprietà delle diocesi. Privilegi. Con una delibera dell'assessore all'istruzione di Trento, gli insegnanti di religione possono ora diventare anche docenti di informatica. E sempre su Nessun Dogma, segnaliamo per la laicità dello Stato, a pagina 19, a Bruxelles, convegno accademico internazionale sul rapporto tra non credenti e lo Stato, con una bella vignetta, con una scure che separa lo Stato dalle chiese. Botte ai bimbi della comunità. Suora incastrata da un video. Ischia, il filmato girato da una delle piccole ospiti. Arrestata la religiosa, dal Corriere della Sera del 17 novembre, molto bene. Denuncia shock, quel prete ha abusato di me per 9 anni. Siracusa, la vittima è un 21enne. Bimbi picchiati a scuola, arrestata una suora dalla Prealpina del 17 novembre. L'orrore, un video la incastra. Altre 3 sono indagate. Bambina di 9 anni è riuscita a riprendere i soprusi e le violenze. Un prete mi ha molestato, Siracusa. E insomma, sempre preti pedofili, preti e suore manesche e solita solfa. Dalla Repubblica del 17 novembre ancora questa notizia. Il prete mi ha abusato da quando avevo 9 anni e dice ancora messa. La denuncia della vittima di un sacerdote pedofilo. Con ampio spazio, molto bene. Anche il Quotidiano Nazionale, edito a Milano col nome di Il Giorno, 18 novembre, e vai, scopriamo gli altarini clericali, il velo della vergogna, gli abusi nel mondo clericale, chiese e pedofilia, il primo dossier, in Italia 89 casi negli ultimi 2 anni. La Conferenza Episcopale Italiana alza il tappeto della vergogna degli abusi sui minori della Chiesa, con una bellissima foto sullo sfondo del cupolone, e la foto anche di Francesco Zanardi che fu stuprato da un prete da piccolo. Prete e pedofilia, noi cattolici cinici, un articolo sulla Stampa del 19 novembre, sempre sul tema dei preti pedofili. Poi su youtube.com potete trovare il video terribile sugli abusi sui bambini sordomuti di Verona, intervista a Don Piccoli che ammette tutto. Poi domenica ore 7, domenica scorsa, 20 novembre, sulla rubrica degli ebrei che va su Rai 3, si è parlato del ghetto ebraico di Alessandria. Anche questo fu posto molto vicino a quel fiume estremamente pericoloso che si chiama Tanaro e che ha ucciso nel corso della sua storia centinaia di persone nel corso delle sue violentissime alluvioni. E non a caso anche a Roma il ghetto ebraico era vicino al Tevere. Anche il manifesto parla a lungo dei preti pedofili. Venerdì 18 novembre 2022, pedofilia nella chiesa, 89 vittime in 2 anni, pure con il lockdown. La Conferenza Episcopale Italiana pubblica i dati del primo rapporto sulle violenze compiute da preti e insegnanti di religione. Report deludente, utile solo alla CEI. Dura critica con intervista a Francesco Zanardi, che, come dicevo prima, fu stuprato da piccolo. Francia, si pente l'arcivescovo di Strasburgo sempre per i gesti inopportuni verso una donna. Poi da reteabuso.org, video intervista al cacciatore di pedofili molestato da bambini, è sempre lui, Francesco Zanardi. Abbiamo poi, sempre su reteabuso, il vescovo emerito di Albany in America chiede a Papa Francesco la rimozione dal sacerdozio in quanto coinvolto in diversi casi di pedofilia ecclesiastica. Sempre Rete l'abuso, comunicato stampa, primo report della CEI sugli abusi, dove sono giustizia e tutela delle vittime? E qui si fa una dura critica anticlericale. Sulla Repubblica del 18 novembre, 100 casi in 2 anni, il primo report della CEI sui preti pedofili, con foto del noto Francesco Zanardi, vittima di abusi. Disgrazie clericali, meno fedeli e costi della luce e del gas alle stelle, anche la Chiesa patisce la crisi. Da il notiziario del Milanese dell'11 novembre. Altre disgrazie, niente benedizioni nelle frazioni di Paderno Dugnano, grosso comune a nord di Milano, poi non ci sono preti. Passiamo al piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Uomini di potere, lo sono i vertici clericali, spesso militi mediocri, specialisti in menzogne e raggiri, da Gianni Grana, L'invenzione di Dio, volume 3. Uso strumentale della Bibbia. Fu quello attuato dai quattro evangelisti, ma soprattutto da Matteo, per accreditare Gesù Cristo come figlio di Dio sulla base delle scritture bibliche ebraiche. Esse gli calzerebbero a pennello, ma in realtà tale tentativo è tanto disinvolto quanto scriteriato e privo di elementare discernimento. Da Mario Trevisan, suo libro anticlericale. Siamo alla lettera V come Vicenza, valenza ideologica laicista. Era quella della cremazione dei defunti per lo scontro con la Chiesa Cattolica che il fenomeno stava provocando. Oggi anche i preti si fanno cremare. Vaticalia, definizione dell'Italia quasi sempre succube dei voleri del Vaticano. Dal sito Democrazia Atea. Venerazione. Atteggiamento spirituale di un uomo verso Dio e di un cane verso l'uomo. Visionario della Madonna. Lo era il Papa ghigliottinatore Pio IX, fanatico inseguitore di finte apparizioni mariane. Da Scarlini, Sacre Sfilate, Guanda Editore. Visione pseudo-clericale della società, della politica e della vita. È quella praticata da molti italiani con la loro ortodossia religiosa, del tutto apparente ed esteriore. Che nasconde un puro opportunismo affaristico. Visioni del mondo totalizzanti. Sono quelle imposte dalle religioni in generale, dai cattolici in particolare, soprattutto con fondi pubblici. Da Enzo Marzo, Corrado Ocone, opera citata, eccetera. Va bene, concludiamo con un riferimento al calendario anticlericale. Vediamo. Cosa metteva per esempio il calendario anticlericale 2022 21, quello che ho dedicato a Dante Alighieri e a tutti i misfatti da lui denunciati. Quindi siamo al 27, domenica 27 novembre. 27 novembre 2015, sospeso a Divinis in Salvador Monsignor Delgado per abusi su minori, i soliti preti pedofili che si fanno conoscere in tutto il mondo per i loro mostruosi crimini. Grazie e saluti, alla prossima puntata. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare.